Letture di Radio 24. Torna in libreria il maestro della spy story John le Carré con il romanzo Il nostro traditore tipo. Niente da dire, il libro è bello e rievoca atmosfere alla Graham Greene. Ce lo racconta Goffredo Fofi in questo articolo in Edicola Oggi con l'inserto culturale domenica del Sole 24 Ore. John le Carré ha ambizioni che sono comuni a migliaia di scrittori dentro il grande mercato dell'editoria. Produrre un'opera che piaccia al pubblico più vasto, che non scontenti i critici più esigenti, o almeno i burocratici e accademici tra loro, e di cui gli sia lecito non vergognarsi, ma semmai di gloriarsi. Questa aspirazione è diffusa, ma i bei risultati sono rari, come sanno i lettori di giallisti e noiristi italiani, smerciatori di giornalismo romanzato in un paese dove il giornalismo non è un granché. Le Carré ci è sempre riuscito, almeno secondo quel che ne ricordano i suoi fedeli lettori, e se molti critici e accademici hanno fatto fatica a prenderlo in considerazione per il grande artigiano e grande narratore dell'epoca in cui gli è stato dato in sorte di vivere, oggi il suo nome è tra i pochi i cui romanzi, uno dopo l'altro, non ci deludono mai, di un maestro, di un genere, ma anche di un testimone molto attendibile, tra i più attendibili ed esigenti dei presunti misteri di un'epoca. Le Carré sa molto bene come funzionano le cose nel nostro mondo tremendo, sa il peso dell'economia e della finanza sulla politica, sa le fragilità delle morali individuali e anche quelle di ceto e quelle collettive, sa il laicismo assoluto del potere e la difficoltà, per chi voglia svelarne gli ingranaggi, di studiarne i risvolti nascosti, sa la difficoltà di opporvisi non ritirandosi dal mondo, ma standone dentro, impigliati nei giochi di ruolo e nella complessità degli adattamenti e cercando di districarsene. La differenza tra Le Carré e gli altri che battono il suo stesso campo sta nella probità individuale di un autore che non distingue tra due necessità che considera prioritarie: la precisione del quadro, e cioè della documentazione che lo sorregge, e la comprensione dei dilemmi individuali dei protagonisti delle storie che egli costruisce su quella base. Il disvelamento del funzionamento non troppo nascosto di una società insieme alla descrizione delle psicologie di chi ne è coinvolto, schierato con gli uni o con gli altri, da una parte o dall'altra delle parti in causa. La storia non si ferma e il potere macina instancabilmente i suoi soggetti, ma anche se stesso, e si muove per gradi superiori, medi, inferiori, lasciando nel basso noi, persone comuni, costretti alla difesa e contenti, se le cose ci vanno benino, di ignorare quel che ci sovrasta. L'ultimo romanzo di Le Carré, Il nostro traditore tipo, ci sembra anzitutto un bellissimo divertimento, nella misura in cui lo erano certi film di Hitchcock o di Fritz Lang, quelli più veloci e più algidi, dei meccanismi perfetti, con una precisa definizione dei caratteri e delle psicologie, bensì essenziali e monodimensionali, e con un'attenzione prevalente alla trama, al movimento, alla sua velocità. Gli attori principali: una giovane coppia inglese, lui professore universitario, lei avvocatessa, che viene accostata in vacanza da un tozzo criminale russo che vuol servirsi di loro come intermediari con i servizi inglesi perché vuole tradire la sua parte, oppresso dalla brutalità e dai ricatti di un mafioso più potente di lui nella gerarchia del malaffare. E poi due funzionari diversi per carattere ma parimenti frustrati, sentimentalmente e professionalmente, dei servizi segreti inglesi. E un contorno di mogli e figli e di figure non chiari, funzionari, guardaspalle e mediatori, e di ricchi e loschi del volgare jet set d'inizio secolo. Ma nel rapido e sapiente percorso di una vicenda dalla fine velocissima e ineluttabile, nel magistrale controllo della suspense, nei flash all'indietro e in avanti, nei risvolti privati, c'è come al solito un nucleo fortissimo, qui costituito dalle poche pagine fondamentali in cui si focalizza il sistema criminale russo con la sua differenza e somiglianza dagli altri e ovviamente con la sua ragion d'essere economica che inquina con quella di altre organizzazioni criminali d'altri paesi l'economia mondiale e la caratterizza nel ciclo del denaro sporco e ripulibile alla cui attrazione nessuna banca e forse nessun governo sembra saper resistere. Dice un alto funzionario dei servizi segreti di Sua Maestà, appena un po' più cinico di altri: «In fin dei conti, che male c'è a ripulire denaro sporco? Va bene, nel mondo non esiste un'economia alternativa molto estesa, lo sappiamo tutti. Non siamo nati ieri. I bilanci di alcuni paesi si basano più sul denaro sporco che non su quello pulito. Sappiamo anche questo. E allora, dove preferiresti veder circolare quel denaro? In quei paesi come soldi sporchi? O qui, a Londra, puliti, in mano a uomini civili, da impiegare per fini leciti e per il bene pubblico? È qui il nodo del romanzo, anche più che nella secca epigrafe d'apertura secondo la quale i principi odiano i traditori, anche se amano il tradimento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Goffredo Fofi, Le Carré dalla Russia con sospetto, pubblicato sull'inserto culturale Domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi. Un gruppo di donne e uomini della cultura italiana ha scritto una lettera appello per alzare il velo di indifferenza di e su Napoli. Le firme sperano di generare la partenza di un circuito virtuoso di solidarietà, in grado di ridare decoro ai tanti napoletani indignati che vogliono superare l'emergenza. Napoli aspetta. Non la grazia dal cielo, non che altri facciano ciò che lei sola può e deve fare, non la caritatevole benevolenza di qualche autorità. Aspetta che ricominci una storia che oggi appare interrotta e che non è solo la sua storia, è la storia di tutto il paese, dal momento che i destini dell'una e dell'altro sono ormai legati per sempre. In un'Italia che non riesce più a trovare il proprio cammino, Napoli rischia di smarrire perfino il senso della sua alta, drammatica vicenda civile, l'idea di un qualsiasi ruolo sulla scena nazionale. Rischia di vedersi ridotta solo a maschera sporca e grottesca dei suoi vizi e di quelli altrui. Napoli aspetta. Aspetta che abbia termine il senso di vuoto in cui è da tempo precipitata, che si rianimino le idee, le passioni, le intelligenze che in passato qui hanno sempre avuto vita, che non sono spente, che esistono ancora, ma che da troppo tempo non riescono a prendere la forma di un discorso e di una speranza collettivi. Napoli aspetta. Aspetta di ritornare a pensare e a sperare, di ritornare a dare voce a un discorso generale, pubblico, civile, e in questo senso necessariamente anche politico. Sa che solo a questa condizione potrà salvarsi e ristabilire il suo secolare dialogo con l'intero Mezzogiorno, avviato ineluttabilmente a frantumarsi e a perdersi se esso si mette sulla strada della difesa degli interessi particolari. Napoli aspetta, ma sempre più avverte che di fronte allo scempio la misura è colma. Avverte che ciò che è in gioco ormai è il suo carattere stesso di città europea, di luogo di vita, di scambi e di attività aperto sul mondo moderno e parte di questo. Ciò che è in gioco, alla fine, è anche quella cosa astratta ma pure reale e concretissima che è il suo onore di comunità ricca di mille risorse, di mille energie, ma che sembra incapace di mobilitare le une e le altre, vittima di una sorta di rassegnato, vile fatalismo. Napoli aspetta. Gli uomini e le donne legati in vari modi a questa città e che si riconoscono in queste righe intendono rispondere alla sua attesa. Essi sentono come non più sopportabile il precipitare delle cose e dunque avvertono la necessità e l'urgenza di unirsi, di fare insieme quel poco, quel molto che possono per avviare con spietata franchezza l'analisi di questa tragedia e dei modi per cercare di cambiare strada e insieme per cercare di cambiare le mentalità, gli uomini, le istituzioni. Lungo un percorso che è tutto da tracciare, ma il cui punto d'arrivo già sappiamo quale deve essere, quale vogliamo che sia, il ristabilimento dovunque, pieno e assoluto, della legge dello Stato e dei diritti dei cittadini, una radicale opera di pulizia nei consigli elettivi e negli organi amministrativi locali, il rafforzamento massiccio di tutto il sistema dell'istruzione. Molte, moltissime altre cose sono necessarie a questa città, lo sappiamo. Ma innanzitutto bisogna pensare a ciò che è indispensabile, perché nella sua assenza anche tutto il resto finisce per diventare inutile. E oggi questo ci sembra l'indispensabile. Avete ascoltato la lettura della lettera appello Napoli aspetta per tornare a sperare, pubblicata sul Corriere della Sera di mercoledì 1 dicembre e firmata, tra gli altri, da Gaia Olenti, Francesco Barbagallo, Roberto Esposito, Giuseppe Galasso, Ernesto Galli della Loggia, Raffaele La Capria, Mario Martone, Elisabetta Rasi, Aldo Schiavone, Tony Servillo.